con Federico Pedroni per fare anche con lui un bilancio del 2019 dal punto di vista cinematografico e sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Federico, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Auguri. Auguri anche a voi. Dici la tua. Una premessa, diciamo, di carattere generale, che la sensazione è che sia stato un anno buono, un anno fortunato. Non tutti gli anni vengono col buco, però insomma quest'anno mi è sembrato una stagione positiva. Sono cose che poi, cioè, al di là di tutto si possono intuire da varie cose, le annate festivaliere, anche il risultato della sala su alcune cose, cioè nel senso che questo è stato un anno in cui Cannes, dopo qualche anno faticoso, aveva un gran bel programma, Venezia si è mantenuta su dei livelli molto buoni, ci sono stati anche dei casi di grande successo in sala di film inaspettati, ad esempio Parasite, il film coreano di Bong Joon-ho che ha vinto il Festival di Cannes, ha avuto un risultato in sala piuttosto straordinario. I risultati di alcuni film italiani importanti sono stati molto buoni, in questi giorni Pinocchio, Il traditore di Marco Bellocchio, appunto, che era a Cannes. Insomma, mi sembra che sia dal punto di vista critico che da quello commerciale sia stato un anno davvero positivo, quindi questo a livello di premessa, e Sì. anche il cinema italiano ha regalato qualche bella sorpresa. Se vengo ai 5, su 4 ero sicurissimo, sul quinto avevo delle difficoltà. Comunque ci metto, perché è stato per me un film piuttosto sorprendente, Dolore e Gloria di Pedro Almodóvar, che appunto era al Festival di Cannes e che vede uno straordinario e inaspettato Antonio Banderas nella protagonista, ma soprattutto vede un ritorno a un'ispirazione da parte di Almodóvar che secondo me non aveva avuto nei suoi ultimi film. Questo è un film che ha molti tratti autobiografici, che comunque racconta di memoria e arte con il solito stile lussureggiante, ma qui anche molto pacato, di Almodóvar che gioca con la memoria, gioca con l'ispirazione, gioca con l'amore, gioca col melodramma in maniera molto trattenuta e davvero davvero riuscita. Quindi alla fine lo metto come quinto, e perché penso sia un film bellissimo, perché è un graditissimo ritorno a dei livelli molto alti da parte di Almodóvar, ecco, insomma. Il quarto è la mia sorpresa dell'anno, forse il mio colpo di fulmine, ma perché sono io che quando vedo delle cose inaspettate di cui non so niente, sono felice, ecco. E anche questo film era a Cannes, ha vinto un premio al Certe Regard, e è un film di cui non sapevo ne sono entrato in sala senza saperne assolutamente niente, solo su un consiglio di un amico fidato. Non avevo visto i due film precedenti del regista e sono rimasto folgorato. Il film è La vita invisibile di Euridice Gismão, che è un film brasiliano di Karim Aynouz, e è un film che, grazie al coraggio di alcuni distributori, è arrivato anche in sala e si è ben difeso perché ha avuto un passaparola ottimo. Uno vede i festival, è un film brasiliano, per uno pensa sempre a una cosa appunto molto, diciamo, da intellettuali e da cose. Invece è un film straordinariamente popolare, è un vero melodramma che ha una trama che, se uno la racconta, sembra una telenovela di Rede Globo degli anni Ottanta. Insomma, sono due sorelle che vengono separate dalla vita e che si sfiorano senza mai riuscire a ritrovarsi, ma racconta in maniera meravigliosa questo rapporto tra queste due donne lontane, quindi questo non rapporto, questa assenza, questo rimpianto che dura tutta una vita, raccontando appunto la famiglia, il Brasile, i ricchi e i poveri, le favelas, la solidarietà. Un film di un'umanità, di una passione. Io mi sono fatto dei pianti che veramente davvero notevoli. Io veramente lo consiglio. Poi ti dico, per fortuna è un film che non mi aspettavo arrivasse in sala, invece è arrivato, e ha avuto, per essere appunto un film così piccolo, senza attori famosi, con un regista in Italia pressoché sconosciuto, ha avuto anche un buon risultato. Ecco, questo è un film da recuperare a tutti i costi, perché è davvero un film sorprendente, come si possa fare nel cinema popolare senza però rinunciare a una messa in scena che sfiora il barocco senza mai esserlo, che cerca la lacrima senza mai essere retorico. Insomma, è davvero un film bellissimo, ecco. Un gran bel film, hai ragione. Vado sul terzo, che è un consiglio in diretta perché il film è ancora in sala. Altra mia folgorazione da Cannes, quest'anno Cannes appunto mi ha lasciato tanti segni, ed è il film di Céline Sciamma, che è il ritratto della giovane in fiamme, che è il quarto film di Céline Sciamma, di cui sono molto, come dire, fierezza, fa ridere, però insomma al Festival di Torino portammo il suo primissimo film, che in Italia ancora inedito, che era La nascita delle piovre, che poi invece è arrivato in sala sia con Tomboy che con Bande Fille, tradotto in Italia Diamante Nero, che non era proprio una traduzione fortunata. E anche la sceneggiatrice della mia vita da zucchina, che è uno dei film d'animazione più belli degli ultimi anni. E qua la Sciamma finalmente arriva nel concorso di Cannes con un film che abbandona il presente, perché si era sempre occupato del presente, per andare invece a raccontare una storia di, più che di passione, di scoperta di sé, un amore tra due donne, una destinata a un matrimonio senza praticamente conoscere il marito e un'altra destinata a fare un ritratto di lei per i posteri, per la famiglia, come si usava fare un tempo. E tra queste due donne, una donna che non vuole essere ritratta perché non vuole accettare il proprio futuro, una donna che deve scrutarla quindi di nascosto per realizzare questo quadro, cresce una passione che è appunto un'affermazione di sé, è un'affermazione della scoperta dei propri sentimenti, della scoperta di quello che sarà il rimpianto, il rimorso di un amore che non si può vivere. Alcuni hanno criticato il film per una eccessiva programmaticità, certo, il film della Sciamma è un film molto passionale ma anche molto intellettuale, cioè un film che racconta proprio una presa di coscienza al femminile. Gli uomini praticamente non esistono in questo film, remano portando delle barche da una parte all'altra, trasportano i quadri, sono dei vettori che vanno da una parte all'altra senza mai interferire sulla storia. La storia è puramente al femminile, è un film femminista, la Sciamma è una militante, diciamo, del movimento omosessuale francese da sempre, però riesce a costruire un film che ha una forza ideologica ideale molto molto potente, però con una messa in scena folgorante. La Sciamma secondo me è uno dei grandi registi europei di adesso, e quindi si conferma con questo film che ha, rispetto agli altri, forse un'urgenza minore ma un'ambizione più alta, si conferma veramente un'autrice importantissima, ecco. E qua veniamo ai due film dei primi due posti, e qua c'è, non sarò l'unico credo, però c'è il famoso discorso di Netflix che esce fuori, perché i miei primi due film dell'anno sono due film che io ho visto in sala, ho avuto la fortuna di vedere in sala, ma sono entrambi film di Netflix, e questa cosa a me non mi suscita più nessun interesse di polemica. Penso che questi due grandissimi film siano ovviamente fatti per la sala, penso che questi due grandissimi film non sarebbero stati fatti senza il supporto produttivo di Netflix, quindi è un serpente che si morde la coda, e quindi secondo me bisogna anche pensare in un altro modo, insomma, perché ragionare sulla problematica della difficoltà della sala e della difficoltà che alcuni film arrivino in sala e che appunto ci siano meno schermi a disposizione per dei grandi film, è vero, però è anche un sistema produttivo che permette che questi film esistano. È un discorso che valeva, guarda caso, per Roma di Cuarón, che era il mio film preferito dell'anno scorso insieme a cui Paul Thomas Anderson, e ci vale per questi due. Visto che io sono un sentimentalone, è quasi un ex aequo, ma faccio un ordine. Al secondo posto metto The Irishman di Martin Scorsese, che va a chiudere con una specie di monumento funebre, perché il film è il film più funereo e testamentario su un mondo, non su Scorsese, un mondo che Scorsese ha sempre rivisto. Io mi sono rivisto dopo, stimolato dalla visione di The Irishman, mi sono rivisto Quei bravi ragazzi e Casino, che sono due film che per la coralità e per certe cose possono ricordarlo, ma diciamo che mentre lì c'era furore, passione, violenza vissuta anche in maniera estroversa e appunto anche lì barocca, qua tutto è sussurrato, parlato, meccanico. Questi criminali, questi gangster sono degli sconfitti in partenza. L'utilizzo tanto criticato dell'invecchiamento, del ringiovanimento digitale di alcuni personaggi, soprattutto di quello di De Niro, secondo me è perfettamente funzionale al fatto che già da giovani questi questi personaggi hanno il destino segnato, cioè sono già vecchi dentro, sono già cadenti, quindi è una cosa che secondo me invece ha un suo senso anche più che formale, proprio esistenziale. Insomma, questo di Scorsese è un grandissimo film tombale su un mondo che lui ha sempre raccontato e che sembra appunto arrivato quasi a una, appunto all'essere narrato in maniera finale, ecco, è un gigantesco finale di partita con i soliti grandissimi attori. Finalmente c'è Pacino anche in un film di Scorsese che gigionese in maniera funzionalissima, è semplicemente straordinario nella parte di Jimmy Hoffa, e racconta il pezzo di storia americana che è legato alla violenza, alla sopraffazione, al ricatto, ai valori morali al contrario che Scorsese ci ha sempre raccontato. Anche qui è uscito in sala, è andato bene in sala, non sappiamo quanto bene perché Netflix non dice quanto il cassa, però le sale, io l'ho visto in sala ed era abbastanza piena sempre, e quindi insomma è un film che purtroppo adesso si può recuperare, però anche per fortuna, su Netflix, e che grazie a Netflix esiste, perché è una produzione talmente gigantesca e talmente costosa che difficilmente qualsiasi major hollywoodiana si sarebbe preso la briga di produrre. E arriviamo al mio colpo di fulmine assoluto di quest'anno, che è Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, che è un film su cui non riesco neanche a dire niente, perché è un film che mette in scena con un'intelligenza, una precisione di sguardo e di scrittura la crisi, la separazione di una coppia con bambino, talmente cristallino, talmente naturale. Però è la cosa meravigliosa di questo film, è che Baumbach ci ha tenuto giustamente a sottolineare che sembra un film che ti mette quasi a disagio molto spesso, perché ti sembra di assistere a una cosa talmente vera, talmente che succede in diretta, che hai questo senso della spia del spettatore all'interno di qualcosa di talmente intimo che non dovresti vedere. È un qualcosa di talmente intimo che poi riguarda anche un po' tutti noi, insomma, perché o ci siamo passati o ci potremmo passare. Però è un film puramente scritto, cioè non c'è nulla di improvvisato. Tutti questi interminabili discussioni, litigi, recriminazioni sono tutte scritte al cesello da Baumbach, che è uno sceneggiatore sopraffino, ma che qua trova anche una forma stilistica perfettamente aderente a quello che racconta. Questi due personaggi, interpretati magnificamente da Adam Driver e Scarlett Johansson, sono veramente le due metà di una metà che ormai si è separata, perché poi rappresentano anche New York e Los Angeles, un altro tipo di cinema, il teatro da una parte, la televisione dall'altra, gli avvocati che entrano in gioco, cioè è questo grande coro che purtroppo riecheggia i drammi personali raccontati in un modo che mi sembra difficile che non riescano a toccare qualsiasi spettatore. Io sono un frignone, quindi ho pianto dall'inizio alla fine, veramente tanto, però è appunto un film i cui paragoni sono abbastanza, vabbè, cioè si è tirato fuori la storia di Bergman, chiaramente, si è tirato fuori Kramer contro Kramer, qui invece secondo me assomiglia pochissimo. È un film davvero cristallino, davvero un piccolo diamante, durissimo, implacabile, ma con un suo ritmo interno, con una sua necessità di racconto davvero davvero straordinari. Non è una visione proprio, come dire, rasserenante, ma è proprio un film che personalmente parla al cuore in maniera quasi imbarazzante. Un quadro completo. Fede, un abbraccio, auguri e speriamo di risentirci durante l'anno. Auguri a tutti voi, ciao, grazie, ciao.